Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un benvenuto da Maurizio Melis. Ce lo ripetono da anni e tutti noi siamo rimasti meravigliati la prima volta che ce lo siamo appunto sentiti dire. Il materiale più resistente mai osservato in natura è la tela del ragno, circa 6 volte più resistente dell'acciaio a parità di peso. Ebbene, una ricerca condotta presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento in collaborazione con la Queen Mary di Londra ci costringe ad aggiornare questo record. Con buona pace di tutti i fan dell'uomo ragno, il materiale più resistente in natura sono i denti delle patelle, quei molluschi con una sola valva che si attaccano tenacemente agli scogli e che sono anche buoni da mangiare. Ne parliamo con il direttore del laboratorio di nanomeccanica bioispirata e grafene, Nicola Pugno, laboratorio che ha partecipato appunto a questa ricerca. Buonasera Pugno. Buonasera a voi. Allora, senta, qual è questo segreto dei denti della patella con cui, ricordiamo, questi molluschi si attaccano agli scogli e grattano anche via le alghe di cui si cibano? Ma sostanzialmente quello che abbiamo notato è che sono dei materiali compositi, potete immaginare a una matrice più morbida, per così dire, che in questo caso è fatta da chitina, una matrice proteica sostanzialmente, con all'interno delle inclusioni di materiale molto duro, sono sostanzialmente dei cristalli, come fosse dei cristalli di ferro, e questa composizione fa sì che la struttura diventi estremamente dura, e il risultato è che se noi andiamo a fare una prova sostanzialmente di trazione per vedere quanto è resistente, quanto sono resistenti questi denti, otteniamo dei numeri, delle resistenze che sono più elevati di quelli della seta del ragno, che si pensava fino a ieri fosse effettivamente il materiale più resistente in natura. Quanto più elevati? E le sete più resistenti sono di ragno e arrivano al massimo a 4.5 gigapascal, a parte l'unità di misura, sì. E vuol dire 4,5 volte l'acciaio per certo. Dire ad alta resistenza. In questo caso qua invece arriviamo anche a oltre i 6. Senta, che cosa possiamo imparare dalla struttura di questo dente? Tra l'altro un oggetto piccolissimo, no? Sì, sono nell'ordine dei 100 micron, per dire. Abbiamo ritagliato poi dei decimo di millimetro, di 10 micrometri, e così facendo poi abbiamo fatto questa prova. Insomma, sono piccoli, ma non piccolissimi. Non così piccoli, insomma, comunque non facile fare questi esperimenti, immagino. No, sono stati esperimenti, diciamo, complicati e laboriosi. Cosa si può imparare? Ma quando si studia la natura, intanto si è interessati a capirne un po' i segreti per sé, e poi certamente se possiamo poi a imparare qualcosa per anche progettare in futuro dei materiali compositi da prestazioni più elevate, questo certamente aiuta. Adesso siamo abbastanza lontani da riuscire a progettare bene dei materiali compositi, che infatti oggi mostrano delle resistenze che sono ben lontane purtroppo dalle resistenze ideali che noi ci aspetteremo. La natura in qualche modo, come non è ancora totalmente chiaro certamente, però in qualche modo riesce a spingerci un pochettino al limite, cioè riesce veramente a progettare dei materiali che hanno caratteristiche quasi ideali, insomma, no? A quelle ideali, come se non sentissero, un po' per così dire, non sentissero troppo i difetti che invece nella scienza dei materiali giocano un ruolo fondamentale, certo. Purtroppo e abbattono le resistenze dei nostri manufatti. Ecco, ma c'è qualcosa quindi che possiamo copiare da questo dente di patella? Tra l'altro voi lavorate appunto anche su materiali super resistenti artificiali, no? Sì. Allora, certamente ci sono delle cose che possono essere copiate, pensiamo anche semplicemente all'arrangiamento di queste inclusioni che dicevo prima, se domani volessimo fare un composito noi potremmo anche pensare sì. Per capirci, di avere inclusioni che hanno quella geometria, certo. Che hanno quella snellezza, che hanno quella percentuale volumetrica, potremmo anche andare a fare ragionamenti di questo tipo, la realtà rimarrà sempre un pochettino inafferrabile. È anche però vero che noi oggi dal punto di vista artificiale abbiamo dei materiali a disposizione che sono anche più resistenti addirittura dei materiali che esistono in natura. Ecco, ma questi materiali sono veramente utilizzabili, voglio dire, o siamo su scala di laboratorio? No, beh, i materiali sono, chiaramente più si va al limite e diciamo e meno hanno ad oggi impattato, perché sono materiali estremi ancora un pochettino da scoprire, però è un fatto che, non so, i nanotubi di carbonio, tanto per dire, o il grafene, sono materiali che hanno resistenza ideale nell'ordine di 100 gigapascal e hanno osservato 60 gigapascal sul nanotubo singolo. Ok, comunque il nanotubo singolo non è un oggetto che noi possiamo utilizzare nella realtà. Beh, non possiamo utilizzarlo nella realtà come elemento singolo, ma per esempio appunto. Nei compositi possiamo utilizzarlo. Sì, ma non avrebbe più la stessa resistenza, però. però? Chiaramente la resistenza è la resistenza del composito, non la resistenza dell'elemento singolo. È già però complicato anche andare a riuscire a progettare bene un composito in maniera tale che l'inclusione lavori al massimo delle sue possibilità. La natura potrebbe insegnarci ad andare un po' verso questa ottimizzazione di materiali compositi. Grazie allora Nicola Pugno. Grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.